Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Rocco Siffredi perde lo scontro al televoto con Andrea Montovoli, approda a Playa Desnuda, la conduttrice dell'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi, non riesce neanche a invitarlo a spogliarsi, è in pochi secondi il porno attore già nudo. Grande entusiasmo in studio quando Rocco fa volare via il costume senza nascondersi dietro al paravento, scena prontamente evitata dalla telecamera che preferisce mostrare le facce divertite di Alfonso Signorini e Mara Venier. Boom su Twitter per l'hashtag ufficiale dell'Isola dei Famosi 2015, il video dello spogliarello è subito diventato virale sui social. Facce divertite, avevano delle bocche spalancate che sembrava il tunnel Gran San Bernardo, tanto era lo stupore. Dio mio, che abbiamo visto? Rocco Siffredi, naturalmente, in abiti da scena, completamente nudo, mostrava quello che era stato già paventato, appalesato, profetizzato. C'erano delle immagini che giravano ancora prima dell'inizio dell'Isola dei Famosi, che faceva vedere delle impronte di piede umano sulla sabbia di una spiaggia, in mezzo come una sorta di solco d'aratro, e si diceva: questo è Rocco che sta camminando per Playa Desnuda. Quindi, nella sua totale prevedibilità, la televisione ancora una volta ha confermato la sua profonda e radicale ipocrisia. Tutti a bocca aperta, Mara Venier che sgambettava con le gambe verso l'alto, sembrava improvvisamente, non so, una cincia allegra in amore, la Marcuzzi si era accosciata per terra, si contorceva, bocca spalancata, Dio mio, cosa vedo, che sorpresa, ma chi se lo sarebbe mai immaginato, ci sono i bambini, qualcuno pensa ai bambini in questo momento, una cosa terribile. Beh, questa è la televisione, questo è stato il boom di ascolti dell'altra serata, sono anni che ci stiamo struggendo pensando al pubblico che sta cambiando, alla TV di qualità, a una richiesta maggiore, al fatto che il pubblico è maturo e non vuole più quella vecchia, frusta, antica televisione, ma per cosa si entusiasma l'Italia improvvisamente, attraversata dalla crisi, attraversata dal pericolo dei missili che arrivano dalla Libia, attraversata dal pericolo degli attentati, della miseria, della paura e dell'incertezza politica, dal grande, enorme, smisurato obelisco di Rocco Siffredi. L'unica vera regola che rimane è che si devono spogliare. Ecco Rocco, tu pensavi di tornartene in Italia e invece ti do il benvenuto ufficiale sulla nuova Playa Desnuda. Certo, ci vorranno decenni di psicanalisi profonda, di ipnosi, di condizionamento con elettrodi per quei bambini che magari hanno visto il papà fare la doccia e hanno per un attimo intravisto Rocco Siffredi. La figura paterna sarà demolita, non esisterà più per loro. Gireranno in lande desolate della loro psiche interiore e diranno: Dio mio, perché siamo nati da padri così insufficienti? Beh, questo è accaduto, ragazzi. Questa è la televisione. Come? Ma se non ora, quando? I cortei nelle piazze, le persone che scendevano assolutamente a manifestare, uomini, donne, bambini, signore anziane, scapigliate, basta con questa televisione sessista, una signorina ha fatto la sua fortuna facendo vedere qualche sgambettio di velina in televisione e tutte le signore invece erano tutte donne, tutte signore, facevano la ola, battevano le mani, erano impazzite, avete sentito che fremito, signorini in mezzo a queste donne, anche lui non sa più dove guardare, non sa più dove mettere le mani, Dio mio, Rocco enorme, sproporzionato, esagerato. Beh, ancora ritorniamo al vecchio antichissimo dominio della clava umana. 800240024. Ma signora mia, dove andremo a finire? È una rocca, è un picco, è un capo affatto, ma che è una penisola in parola d'onore. Curioso, a che serve questo affare, o signore? Forse da scrivania? o da portagioielli. Vezzoso, amate dunque a tal punto gli uccelli che vi preoccupaste con amore paterno di offrire alle lor piccole zampe un sì degno perno? Cortese, state attento che di cotesta chiappa il peso non vi mandi per terra a capochino. Tenero, provvedetelo di un piccolo ombrellino perché il suo bel colore non se ne vada al sole. Arrogante, ehi compare, è in moda quel puntello? Si può infatti benissimo sospendervi il cappello. Enfatico, alcun vento o naso magistrale non può... Pensate che colpo d'ala invece sarebbe stato se improvvisamente fosse uscito nello studio un attore, in questo caso è Gigi Proietti, e avesse interpretato lo stranoto monologo di Cyrano de Bergerac. Quando il visconte di Valver, per fare una spacconata, dice: signore, avete un grosso naso. E Cyrano lo guarda, ridendo, dice: ho un grosso naso. Tutti sapevano che era impossibile far notare a Cyrano la sua appendice sproporzionata, perché essendo un grande spadaccino avrebbe subito passato a fil di spada la persona. Cyrano, prima di infilzarlo con la spada nella celebre ballata, quando dice al fin della ballata io tocco e lo trafigge e lo uccide, comincia a fare una sorta di enumerazione delle maniere sottilmente ironiche, metaforiche, molto più incisive e molto più profondamente offensive che avrebbe potuto usare il visconte di Valver per insultarlo, come dice semplicemente che io ce l'ho grosso il naso. Pensate alle cose che avreste potuto dire. E il visconte di Valver lascia la pelle su questa sua sconsiderata maniera di essere triviale. 800240024, avete visto, esiste una possibilità di raccontare, narrare, metaforizzare qualunque evento umano, anche il fatto che la televisione italiana abbia trovato come sua ultima ed estrema spiaggia il fatto di portare un pornostar noto per la sua appendice asinina a protagonista di un programma sul quale sociologi, critici televisivi, esegeti, giornalisti, pensatori, poeti si stanno giorno per giorno consumando nel descrivere appunto quali possono essere i sottotemi, le metaletture sociologiche, ma in realtà è solo questo. Portate il fenomeno da baraccone, portate l'uomo sproporzionato dentro una gabbia e tutti improvvisamente esultano. Ma dove sono i passi avanti? Dov'è la nostra capacità di essere adeguati a una diversa valutazione del rapporto tra generi? Dove sono soprattutto tutte le donne che sono andate in piazza per settimane, per sabati interi? Ho visto signore scendere in piazza con i cartelloni delle veline di Striscia la Notizia. Adesso per Rocco state tutte zitte. 800240024. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno signor Nicoletti. Stavo pensando, per la prossima stagione sarebbe una bella cosa far incontrare magari Suor Cristina con Rocco Siffredi. Beh, sta dando un'idea di format eccezionale. Due fenomeni da baraccone costruiti alla televisione. Suor Cristina, la suora canterina, che in effetti è stata accostata a esempi di subumanità, il cantautore, il DJ tatuato, era sempre messa insieme a uomini scimmioni per far vedere quanto il nitore, il candore, il virgineo fulgore di questa donna in realtà potesse contrastare e uscire indenne anche da ambienti così virilmente contaminati, brutalmente contaminati. Ma cosa potrebbe fare Rocco e sua Cristina? Cioè, lei potrebbe cantare e lui suonare, non lo so, non mi sfugge. Quello che volevo sapere da lei invece è una valutazione sull'ipocrisia generale nel considerare le gradazioni della decadenza dei nostri costumi semplicemente in chiave puramente ideologica. Io ho visto veramente fare battaglie per molto meno, ho visto persone stracciarsi le vesti per cose molto più banali e ho visto ieri una platea, un pubblico di signore fare l'ola. Voi te lo dici per invidia, lo dici per rabbia? No, lo dico perché è una mia semplice considerazione, non sono un indignato, non mi interessa, io osservo e racconto. Emanuele. Sì, salve, volevo ringraziare per avermi dato la parola. Allora, io volevo commentare una cosa, non può, se i problemi dell'Italia sono questi talk show che tengono impegnata la gente e tutto, è normale che il paese vada in rovina. Perché queste trasmissioni qua servono per le pecore, per seguire il branco, invece magari Beh, guarda, ma non siamo adesso, non è che ci ha fatto ridere a tutti, oggi ne parliamo perché in fondo è un fenomeno divertente, ma lo sai qual è il fatto divertente? Un reality come l'Isola dei Famosi costa fanta miliardi e sposta masse enormi di persone che lavorano, di persone che creano l'indotto e di pubblico televisivo che lo guarda. Ma quello che mi viene da ridere è che le persone sono elementi passivi, quindi il motore funzionale di questa grande macchia, perché guardano questo spettacolo, oggi ne parlano tutti i giornali, Rocco cade in fallo, che titolone che fa Libero, Rocco cade in fallo, non cade, rimane in piedi, il treppiede solitamente è molto più stabile del bipede, quindi non cadrà mai Rocco, anche quando schiatterà resterà in piedi ancora per tanto tempo, si esalta per qualcosa come se fosse una grande rivelazione, una novità, per qualcosa che uno semplicemente andando su YouPorn, può vederlo in tutte le maniere, in tutte le forme, in tutte le varie declinazioni, per vedere una cosa coperta da pixel che manco si vede, che si riflette semplicemente nello stupore delle signore che improvvisamente sembra che hanno scoperto, non lo so, un extraterrestre, un UFO, qualcosa che viene da un'altra dimensione, quando è semplicemente una cosa che chiunque può vedere. Melog. Cronache meridiane. Rocco, io lo so che diciamo per te è una specie di condizione naturale, ok? Ah. Però ci sono dei bambini che ci stanno guardando. Puoi andare cortesemente dietro il parapetto delle buone mattine? E Rocco andò dietro al paravento che era ad arte frastagliato come una tapparella che ogni soffiar di vento faceva spalancare e intravedere ciò che sembrava che in quel momento per la prima volta nella loro vita avessero visto tutti, quando, ripeto, è senza infamia, senza lode, uno degli oggetti più visibili. È sufficiente andare sul motore di ricerca Google e metterci attrezzo di Rocco Siffredi e ce l'avete in tutte le possibili accezioni e punti di vista. Chiamiamo finalmente una signora, perché chiamano solo uomini. Sandra, eccomi. Sandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Vorrei provare da una donna un punto di vista un po' più riflessivo rispetto alla facezia, ci fa ridere, ci fa sorridere, ma dove è finito quello squadrone gigantesco, quell'esercito di persone che si indignava per vedere, non so, delle signorine che facevano la pubblicità ai reggiseni un po' scollacciate, di fronte al fatto che le donne vanno invisibili o semplicemente perché un povero, un pornostar anche in un momento di diciamo finale rispetto alla sua carriera fa intravedere e baluginare il suo attrezzo di lavoro? Guardi, io penso che innanzitutto siamo proprio sulla fase del morbo, no? La morbosità è praticamente socialmente quella che ci fa svagare. Ma però ci sta pure, una cosa che mette curiosità, va bene, ma esatto. Una cosa che tutti possono, non è una novità, cioè fosse venuto un extraterrestre col pisello viola che si accende e spegne, uno diceva è una cosa mai vista, ma è la cosa più vista del mondo quella. È la cosa più vista del mondo, ma se parla di più di quello, più che altro che è successo nello stesso programma con rispetto alla marocchina che non voleva mettersi nuda. Alla signora, è stato sì. Tutta una mossa di culture, di fare vedere a che punto siamo noi, a che punto sono loro, e di una maniera sfacciata. Che poi la signora Marocchina secondo me sarà quella che vincerà, che stanno creando il personaggio, perché è veramente esatto, un personaggio. Sì. Esatto. Lei pure è marocchina, Sandra? No, io sono argentina. Argentina, sì. Sono argentina, sono 20 anni che abito qua in Italia, sono italiana, mio nonno era italiano. Sono molto orgogliosa di essere qua e abitare in Italia. Vabbè, cioè adesso. Però purtroppo c'è una parte sociale, venendo io di una cultura totalmente più aperta, dove vedere un uomo nudo sarebbe una cosa praticamente senza successo, perché in Argentina al giorno d'oggi non è un fattore pubblicitato a questi punti. In effetti siamo molto più aperti, molto più liberi, però... Comunque, ma sì, è chiaro che è il sorrisino del seminarista che manda invisibile, perché non fa manco, cioè fa ridere, esatto. Il fatto che ci sono delle persone che si esaltano per questo. Esatto, mi fa allora, se vogliamo essere una società cattolica, perché purtroppo Abbiamo il Vaticano, purtroppo siamo tutti cattolici, eccetera, eccetera. Vabbè, quello vogliamo che fare. Quello dà anche sapore al peccato, se no sarebbe no, è la visione di come hanno fatto il programma, perché hanno buttato a questa donna marocchina come... L'hanno eliminata comunque, l'hanno eliminata la signora marocchina. Sì, è stata eliminata come un fatto culturale, che chiusura, che maniere forti, perché la figlia ha detto che era una vergogna, praticamente che era disonesto che le persone si mettessero nude, e la nostra società occidentale ha facendo questo Rocco che si toglie. Vabbè, Rocco è stato il suo trionfo, ha fatto quello che ha sempre fatto, esatto, con lui non esatto. Ce la può prendere, anzi esatto. ha un candore esasperato, è come un orso ammaestrato con i ferri roventi, quando uno suona al mandolino si mette a ballare. Luigi da Vicenza, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, sì. Niente, io sono uno dei partecipanti del primo reality, diciamo, dell'isola che è stato girato in Italia, che si chiama Survivor, naturalmente non se lo ricorda nessuno. Dove avevano mandato? No, non mi ricordo, dove stavate voi? Noi stavamo a Bocas del Toro, che è un arcipelago vicino alla Repubblica Panamense, è stato nel 2000, praticamente in contemporanea con il primo Grande Fratello, solo che noi eravamo registrati, quindi mentre andava il primo Grande Fratello noi eravamo sull'isola a fare il programma. Non avete avuto un gran successo, cosa c'è da dire? Sì. Nessun successo, ma fondamentalmente perché? Perché il programma, vi posso garantire, era vero, io ho perso in 16 giorni ho perso una decina di chili, veramente non si mangiava niente, veramente si stava malissimo perché pioveva 6 giorni su 7, e il pubblico italiano non vuole vedere quello, non gli interessa vedere persone arrabbiate, persone affamate, persone che stanno male, non gli interessa. Pubblico. Vuole vedere solo gente attizzata, quindi ha messo l'elemento più attizzante che nell'immaginario generale esiste, e c'hanno anche ragione, perché noi infatti. Stiamo facendo dei problemi mentali, e dobbiamo scegliere la dolcezza, capire, sentire i tempi della femminilità, in realtà vediamo che alla fine arriva quello che se lo porta in spalla e batte tutti. Massimo. Sì, buongiorno. Sì. No, volevo solo dire questo, che questo programma secondo me fa il paio con le code per 50 sfumature di grigio ed ha in effetti il polso di quello che è veramente il paese. È inutile che ce la raccontiamo, noi alla fine infatti andiamo a votare in base alle chiacchiere non ai fatti e ci ritroviamo poi i politici sì. Che ci meritiamo. Io, se mi permette, poi lei ha il diritto di esprimere il suo punto di vista, il mio punto di vista non è dello scandalizzato dove siamo, è che gli italiani si divertano a pensare alle sconcezze, mi fa anche sorridere, preferisco questo piuttosto che si divertano a seviziare le persone deboli, questo mi sta anche bene. Mi fa un po' sorridere questa sorta di generalizzato e apparentemente condiviso senso di improvvisa indignazione per delle copertine di giornali, per delle battute salaci, per qualcosa che in realtà, rispetto all'entusiasmo che ho visto per la trivella di Rocco Siffredi, mi sembrava ben poco, e tutti erano veramente convinti a puntare il dito, programma sessista. Io sono stato ospite non so di quanti talk show televisivi in cui devo sostenere la parte, dico ma se uno gli va di andare a sculettare in televisione sono fatti suoi, no, non è possibile, lo fa perché ha servito a un'immagine puramente maschile, la donna non è questo, noi siamo anche altre cose, sì, perfetto, ma allora perché fate passare questa roba? Brunella. Sì, buongiorno a lei Nicoletti, grazie per avermi richiamata. Dunque, io vorrei semplicemente dire questo, né io né la mia famiglia né i miei amici seguiamo queste cose, isole, non isole, eccetera, eccetera. Noi vorremmo ascoltare la radio, vorremmo guardare la televisione con le trasmissioni tipo un telegiornale o altre trasmissioni, vorremmo comprare i quotidiani che parlino di cose interessanti. Non è possibile che i quotidiani parlino dell'isola, che la radio e tutte le trasmissioni più o meno colte, più o meno attente parlino dell'isola. Se io voglio sapere dell'isola, mi compro chi? Mi compro no, Marella no, Brunella, no, no, scusi, Brunella, cioè, non si fermi, non no, scusi, atteggiamento, snob radical chic. No, io ho diritto, dovere, interesse e considero un'operazione altamente culturale parlare dell'isola questa mattina, perché mostrare un compromesso, mostrare un'ipocrisia rispetto a dei modelli, secondo me fa parte di un dovere di divulgazione. Non parlo l'isola perché voglio parlare del fallo di Rocco, ma semplicemente proprio perché persone come lei in questo momento fanno le indignate con non ne voglio sapere niente. No, ne deve sapere, perché è il mondo in cui vive anche lei. A domani.